ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Coração e dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Coração e dinheiro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quel che finisce bene, Suarez si è pentito, ha chiesto scusa, tra i due è tornata la pace. Oh. Sì, ma sicuramente la sua iniziativa non ce la scorderemo mai più, il famoso morso di Suarez che ha fatto il giro del mondo facendo guadagnare al giocatore tanti titoli, quello di squalo, l'attaccante feroce, l'affamato, il cannibale, chi più ne ha più ne metta, e lo vediamo persino ritratto in fotomontaggi con le sembianze di un vampiro. È vero, il morso gli ha fatto guadagnare tanti appellativi e il morso è diventato anche un business in Cina, un'azienda, ha lanciato sul mercato un nuovo tipo di apri bottiglie. Quasi quasi te lo compro, si compra sull'eBay cinese, non mi ricordo più come ti si chiama. Voglio proprio vedere a fare l'acquisto online. Hai ragione, vado in Cina e torno con l'apri bottiglia, con la forma dei dentini di Suarez. Un morso ancora? Ancora un morso? La morso ancora forse? La morso di nuovo? Difatti la mia prima intenzione era... La morso ancora? Sembrava più un morso che una testata. La morso di nuovo? Ma incredibile! Ma incredibile! E ti fanno male i denti anche! Avrei preso l'osso! No, dopo prende la reazione di Chiellini. Qui morde! È morso! Qui morde! È un morso! Qui ma morde. È clamoroso! Lì ha morso! Ma è clamoroso! Ancora una volta, la terza volta in carriera, clamoroso! La terza volta in carriera, ma siamo sicuri che siano solo tre i morsi dell'attaccante uruguaiano? Non mi stupirebbe se ce ne fosse anche qualcuno in più, lo chiediamo. Ai nostri ascoltatori il quizzettone di oggi è proprio questo, vediamo chi indovina il numero esatto, 800240024. E intanto che voi ci pensate, una cosa è certa, Suarez ha dei denti forti, perché non tutti, diciamo la verità, possono vantare una bocca a prova di morso, una bocca sana, perfettamente funzionante, ben allineata, in equilibrio e quindi forte. Basta fare la prova della mela, no? A proposito di morsi celebri, Deborah, quello è un morso che ti è costato caro, ma è un'altra faccenda. Sì. A volte la bocca, quando mordiamo, tira, è dolente, c'è chi quando apre sente l'articolazione temporomandibolare un po' arrugginita, c'è chi invece ha dei dolori mentre mastica. Allora, di bocche da morsi, di bocche da baci, ma anche di bocche sorridenti, ci auguriamo e speriamo che ce ne siano tante, vogliamo parlare oggi con voi. 800 24 00 24. Inevitabilmente il morso di Suarez ci dà il pretesto per parlare anche della salute della bocca, che complice la crisi, complici i costi, è una delle parti del corpo più trascurate. Da un'indagine condotta da Demoscopea sono stati intervistati 37.000 cittadini fra i 18 e i 65 anni di età, emerge che la prevenzione non è proprio una parola d'ordine per le famiglie italiane. Un italiano su 5, e quindi il 20%, non va dal dentista da più di 2 anni. I dati rilevano che le fasce di età fra i 25 e i 34 anni e quella fra i 45 e i 54 sono le meno attente, quelle che vanno meno dal dentista. E ci sorprende che in quelle fasce d'età le più distratte siano proprio le donne, quindi... Perché non abbiamo tempo, ecco. Perché anticipiamo sempre gli altri. Altri, sai che le scuse ci sono. Ci sono sempre, però in realtà fate attenzione perché non è questa proprio una buona abitudine, ma ora è tempo di presentare i nostri esperti. Abbiamo uno studio molto affollato questa mattina, ci fa molto piacere. Ringrazio e saluto il professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Buongiorno. Ma buongiorno a voi. E poi il professor Alessandro Nanussi, odontoiatra e docente all'Università dell'Università di Milano Bicocca. Benvenuto anche a lei, professore. Buongiorno, buongiorno. Insomma, Deborah, ci hanno già fatto l'esame della mandibola. Sì. Siamo adesso lo faremo anche ai nostri ascoltatori. Diciamo che abbiamo qua due esperti che ci aiuteranno a capire perché i denti possono far male alle spalle anche se non c'è Suarez nei dintorni. Allora iniziate, Deborah l'ha anticipata, a darci qualche dettaglio. Professor Nanussi, siamo quello che mangiamo, noi lo ripetiamo spesso, ma la nostra salute dipende anche da come mastichiamo, in generale da come teniamo la nostra bocca, perché se la salute delle gengive, delle mucose ha un'influenza diretta sulla salute del nostro cuore, anche i muscoli e le articolazioni della bocca hanno ricadute importanti sul nostro apparato muscolo-scheletrico, sulla nostra postura. È proprio così, Nicoletta. Purtroppo l'odontoiatria è un po' considerata la Cenerentola della medicina, ma la mandibola, l'apparato masticatorio appoggiato è unito al resto del corpo, quindi non dobbiamo sottostimare l'importanza di una buona salute di questo sistema. Muscoli, articolazione, ma anche tutto l'ecosistema del cavo orale influenzano e come la salute del nostro corpo. Se vogliamo approfondirlo, ovviamente possiamo considerare come tutti i muscoli che si ancorano alla mandibola sono uniti alla testa, al collo, persino alle spalle. Quindi non possiamo dimenticare assolutamente che una buona salute, un buon equilibrio di questo settore e la forza, come dicevate prima, la forza è essenziale per poter esercitare al meglio tutta la nostra funzione locomotoria generale. Ma professor Di Pietro, la domanda sorge spontanea. Io come faccio a capire se i dolori alla schiena, al collo, alle spalle, perché di questi muscoli parlava in sostanza il professor Nanussi, certo, potrebbero essere il risultato di una bocca che chiude male, non è in equilibrio, guarda, non in forma? Dobbiamo immaginare questo e pensare questo. La nostra bocca produce una forza quando mastica che può arrivare a 70 kg al centimetro quadrato. Meno quindi... male che Chiellini non lo sapeva. Mamma mia, poveretto. No. Che poi cosa vuol dire? Che se noi sotto la nostra mandibola ogni centimetro mettiamo un filo d'acciaio, possiamo ad ogni filo collegare una persona di 70 kg e tirarla su. È una cosa pazzesca, come massimo, cioè, non fatelo adesso a casa, non fate questo esercizio. Perché non trovare tante esercizio. Persone da 70 kg certo, non è facile. Infatti la difficoltà è proprio quella. Esatto. Però al circo più volte si vede, no, fare sì. questo tipo di esercizio in cui si certo. trascina un'auto, eccetera, con i denti. Questo è possibile grazie ai nostri muscoli. Mm-hmm. Le ossa sono lì, ma noi stiamo in piedi e facciamo tutto quello che facciamo grazie ai muscoli. Ma i muscoli in fondo cucciolotti, bravissimi, ma sanno fare una sola cosa, sì. si sanno allungare e si sanno contrarre, sì. oltre a questo non sanno fare, ma lo fanno veramente molto bene, veramente bene, infatti noi possiamo vivere come stiamo vivendo. Cosa c'entra quindi, torno adesso, cerco di darti la risposta, essere più puntuale, tutta questa forza in fondo da dove arriva? Arriva esclusivamente dai muscoli, ma non bastano i muscoli della bocca a dare questa forza. Quando abbiamo veramente bisogno di tanta forza in bocca, attingiamo alla forza un po' di tutti i muscoli e di tutto il nostro peso, di tutto il nostro apparato muscolo-scheletrico. Quindi chiediamo un po' che arrivino i soccorsi. Assolutamente, guarda, posso dirti una cosa personale, sì. ma personale che si può dire ovviamente. Basta che non sia indecente, come si dice. Assolutamente sì, no! Se volete esco dallo studio. Guarda, e quindi che cos'è questa cosa? Due anni fa, voglio sapere anch'io. Due anni fa sono stato dal dentista, che poi è il professor Nanussi il mio dentista, ma questa è una coincidenza. Mi ha sistemato una capsula di un dente in fondo, come si chiamano? Era un molare. Ah, sì, ti ricordi che era colpa tua? Raccontiamo okay. i tuoi segreti. Poi non aveva più tempo e mi ha lasciato senza la capsula e io stesso gli ho detto, allo studio pieno esco. Quella sera i miei bambini, che hanno 20 anni, mi hanno portato a giocare a calcio con loro. Quella sera ho rotto il tendine d'Achille. È la colpa del professor Nanussi. Per cui cosa c'entrano? Okay. Ecco, questo è stato. Ecco, sarà che non c'entrano oggi. Niente, ma invece c'entra. Insomma, lo so direttamente sulla mia persona. Perfetto. Infatti, oggi, insieme a Deborah e i nostri esperti, parleremo proprio anche di bocca e di sport, perché la bocca degli sportivi, insomma, la bocca serve anche a fare sport in modo adeguato, ecco. oltre che a servire per tante altre cose, serve anche per muoverci bene. 800 24 00 24 abbiamo detto che Suarez ha i denti forti, ma voi con un occhio clinico riuscite anche a capire come serra i denti, a che classe, come la chiamate voi, appartiene Suarez. Come si fa? Ah, certo. Allora, le classi dentali sono, a seconda della posizione dei nostri muscoli, dei nostri denti, fondamentalmente sono tre. Prima, seconda e terza classe. La prima classe è quella cosiddetta normale, la seconda classe invece porta ad avere il mento un po' indietro e la terza classe ad avere un mento un po' estruso, un po'... Sì. C'era la barzellettina, il macellone un po' come Ridge di Beautiful, in sostanza. Sì, ecco, assolutamente qua. Sì. E queste sono le classi in senso generale, poi magari il professor Nanussi sarà più, ci dirà anche magari come fare a riconoscerle tra di noi, considerando una cosa, che la chiusura della bocca è come il tappo di una bottiglia, quindi se chiude male non va tanto bene, e allora dobbiamo rivolgerci poi magari e farci vedere dal dentista. Quindi magari se il professor Nanussi vuole dare lui in... Ma volentieri, anche perché l'esempio di Suarez è proprio un esempio classico di come i denti possano fare male alla spalla. In questo caso era la spalla di un altro, perché certo, era quella infatti, di Chiellini. Non però... era proprio la sua, che era dolorante. Ma... la domanda ogni tanto ci viene posta. La mia occlusione può creare delle problematiche al resto di tutto il mio sistema muscolare? Allora, intanto, i denti, noi ci vediamo allo specchio, siamo abituati a vederli tutto sommato sempre allineati. Ci facciamo addirittura una consuetudine estetica. Però ognuno di noi con un po' di autocritica può verificare che le basi su cui i denti sono inseriti, le basi ossee, il mascellare superiore, sì, la mandibola, hanno in realtà un rapporto fra di loro che può portarli a non essere perfettamente allineati. Si vede soprattutto sul profilo. Ciascuno può capire se la mandibola è cresciuta troppo in avanti o è rimasta un pochino indietro, e lo stesso vale per l'osso superiore. Quindi la seconda classe, che poi è un po' quella tipica delle modelle, se vogliamo. La nostra, insomma, Deborah. Sì. Sì, poi devo fare una considerazione. Prego. È quella in cui si vede il visino triangolare col mento un po' sfuggente, la boccuccia da bambina, spesso associata anche ad una postura particolarmente seducente, perché le lordosi del corpo diventano un po' più accentuate, le parti importanti sporgono un po' di più. Questo quindi non è detto che sia un difetto. Di sicuro trovare un allineamento ideale dell'arcata superiore su quella inferiore, che la superiore si comporta come il coperchio di una scatola, quindi sì, deve proteggere e coprire l'arcata inferiore, ma senza sovrastarla troppo. Questo è quello nel quale generalmente le persone hanno meno problemi. Le terze classi sono associate spesso a una grande forza fisica, però Suarez in seconda di male gliene ha fatto lo stesso. Anche lì. Allora, vogliamo fare il nostro autotest, professor Di Pietro, per sì, aiutare i nostri ascoltatori a capire se la loro bocca chiude bene, se molti problemi che avvertono magari a livello del collo, delle spalle, e scenderei sino alle caviglie, potrebbero, potrebbero avere tra le cause, sottolineo tra le cause, anche una bocca non perfettamente in equilibrio. Ah, ma certo che sì, beh, anche perché se io ho preso una caduta e una storta alla caviglia, forse certo, i denti c'entrano un po' poco, ecco, questo sicuramente. Però per vedere se magari le articolazioni temporomandibolari sono in ordine e quindi non abbiamo delle lievi sublussazioni, che vuol dire piccoli spostamenti dalla sede dell'osso, facciamo una cosa molto semplice. Se state guidando, però fermatevi, per favore. Ecco. Allora, prendiamo, se avete una penna, un pennarello, e se proprio non l'avete, usate il vostro dito indice e lo ponete davanti alla vostra, al vostro viso, appoggiando la punta verso l'alto, che deve arrivare a dove c'è la punta del naso, e poi deve scendere bello dritto in modo che arrivi fino al vostro mento. Se non avete la penna, provate con... l'ho chiusa perché mi stavo disegnando il naso. Ecco, provate ovviamente anche con il dito indice, come se dovete dire a una persona state zitti, ecco questa cosa. Poi lentamente, davanti a uno specchio, provate ad aprire la bocca lentamente, aprite al massimo la vostra bocca e guardate se la parte del mento rimane allineata con la vostra bocca. biro o con il vostro dito, oppure se va verso destra o verso sinistra. Ce lo deve dire lui, non puoi dirtelo da solo. Al limite, però, se in questo momento io lo posso dire a voi, sì, ai radioascoltatori no, e fatelo col telefonino, va bene, uguale, insomma, fa un po' da specchio, piuttosto riprendetevi così vi vedete con più... E poi mandateci le foto e vediamo. E noi le possiamo in massima apertura. Una diagnosi rapidissima. Ottimo. Dopo c'è Ilenia che ci scrive anche dei suoi problemi con il bite, quindi prendete nota della sua segnalazione. Perché noi oggi parleremo anche di bite, vero? Esattamente, ci dorme Ilenia, ma soprattutto ne rompe uno l'anno, perché lo stringe talmente con forza la sua bocca che si rompe, anzi si rompe anche i denti addirittura, per cui poi racconteremo anche di tutto questo. Intanto voi che fate gli esercizi che Nicoletta sta facendo in studio, ma anche io mi sono cimentata sporcandomi il naso con l'inchiostro, vi anticipo che se avete a casa un piccolo Suarez, cioè un bambino morsicatore, chiamateci, perché cercheremo le cause di questo comportamento e anche vi daremo consigli, speriamo, per affrontarlo. In questo caso non è la donna di denari a parlarvi, ma la zia, comunque i miei non fanno niente di tutto questo. Invece devo dire che la mia figlia, la più piccola, che adesso comunque è grande, intorno ai 2 anni, bene, anche Pietro Lacorte che la conosce dice sì, come per dire sì, è grande, è anche molto carina, aveva una faccetta d'angioletto, sai, ricciolini, occhi blu, ma intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo, quando le amiche della sorella non andavano a casa e quindi le rubavano la scena, lei qualche morsicata l'ha data, lasciando i morelli, proprio i segni dei dentini, e quindi però devo dire che è stata una cosa temporanea ed è cresciuta lo stesso bene, adesso non lo fa più. 800 24 00 24, dove andiamo? Allora direi che possiamo sicuramente andare, non appena adesso ho il possesso delle telefonate, Monza, possiamo Udine. Andare, esatto, non avendo donne a cui noi diamo sempre la precedenza, comincerei con il più lontano, che è Marco da Udine. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Io chiamavo per chiedere una cosa, ho una bocca normale, penso in classe 1, però da alcuni mesi, dopo che ho fatto una pulizia da igienista, dal dentista, mi hanno detto che probabilmente avevo un po' di... dovrei usare un po' il bite, però non mi era mai successo. Dopo aver fatto queste 2 sedute di pulizia, ho sul lato destro uno scatto anche nella deglutizione, tra mandibola e mascella, ed è molto fastidioso perché mi accorgo anche nella deglutizione normale della saliva. Insomma, direi una seduta di igiene con effetti devastanti. Posso fare una domanda al radioascoltatore? Sì? Lei per caso, quando ha fatto la seduta di igiene, ha aperto la bocca più del solito? Cioè le hanno chiesto apra tanto? Sì, che i dentisti dicono sempre apra tanto. Perché? Signori, dobbiamo lavorare in bocca, se la bocca rimane chiusa. Però si va a casa, no? Bisogna avere effettivamente l'accortezza di capire se il paziente che c'è in quel momento riesce ad aprire tanto e per quanto tempo. Magari il problema non riguarda la mandibola, ma riguarda una muscolatura cervicale contratta. Oppure, e chiederei anch'io al paziente, se la seduta l'ha particolarmente sofferta, oppure era timoroso in quel momento, perché rimanere contratti a bocca aperta per un'ora sicuramente sollecita maggiormente tutto il sistema, quindi una situazione già un po' critica può diventare sintomatica, come nel suo caso. Marco, un caso non preoccupante. Non l'ho sofferta più di tanto, normalissima. E l'unica cosa, io qualche mese prima ho avuto un po' di epicondolite al gomito, forse magari dovuto a quello. Allora, vogliamo dare un'indicazione magari per Marco e soprattutto per le persone che si ritrovano in questa situazione? Se Marco fosse in studio da me in questo momento, lo vedrei, le chiederei come sta, appunto, come va la cervicale. E comunque una bella radiografia dinamica alla cervicale, andrei a vederla. Cosa vuol dire dinamica? Dinamica vuol dire che quando fanno la foto, la radiografia, il capo prima è chinato in avanti il più possibile verso il petto, poi tutto all'indietro, massima estensione, massima flessione. In questo modo si vedono se ci sono dei piccolissimi spostamenti delle vertebre, si vedono se sono allineate bene, e questo potrebbe far vedere che magari su qualche vertebra c'è qualcosa che non va perché i muscoli non tengono bene. Allora Marco voleva dare colpa all'igienista dentale e invece a quanto pare deve andare un po' a risalire alle sue problematiche fisiche. Deve ringraziare l'igienista dentale che facendo questa manovra un po' magari facendo da pretanto gli ha fatto scoprire probabilmente qualche altro problema. Ottimo. Cuore e denari. Riconosci, Carosello? Prima si vedeva, Laura, poi si andava a dormire. Pensa che Laura Vanossi e Marco Lombardo sono talmente giovani che non sanno neanche cosa sia giriamo Carosello. Giriamo il coltello nella piaga. Comunque, le reclame. Si dice che la pubblicità sia il motore del commercio, forse anche in parte il motore del calcio, perché sai che si dice che Suarez abbia fatto le sue scuse perché le sue azioni, per dirla a modo tuo, cara Deborah, erano in picchiata con gli sponsor. Ci aggiungerei anche giustamente, perché devono anche imparare, no? Che non è che si possa vivere sempre scialacquando tutto quello che guadagnano e poi comportarsi in quel modo sul campo. Non tolleriamo comportamenti antisportivi, l'ha dichiarato subito il sito di poker online, anche qua dovremmo aprire un'altra parentesi, 888 poker, non so neanche se si pronunci così, sono tra gli sponsor personali appunto di Suarez dopo il morso che l'attaccante ha affondato sulla spalla di Chiellini nel corso della partita, che ha peraltro, tanto per girare un altro coltello nella piaga, quella partita che ha sancito l'eliminazione degli azzurri dal mondiale. Insomma, qualche problema di denari per Suarez che si aggiungono al verdetto molto severo anche della FIFA. Ritiro del pass dei mondiali, squalifica per 9 giornate e anche per 4 mesi complessivi da ogni competizione sportiva. Oltre al sito di poker, anche Adidas, azienda di cui era testimonial, ha subito messo in discussione il contratto con il giocatore. Ha fatto bene, no? Che dici? Direi di sì. Se da un lato il comportamento ha allontanato gli sponsor alla pubblicità, dall'altro però il morso è qua. Per seguire gli esempi negativi siamo sempre veramente bravi, il morso ha fatto parlare di sé al punto da essere cavalcato da alcune aziende italiane per le loro reclame. E insomma, se i denari escono dalle tasche di Suarez, forse ritornano nel Made in Italy, a cominciare da Barilla, che ha chiuso la sua campagna mondiale con alcune foto accompagnate da slogan molto simpatici, da Ci hanno stesi a Ci han cotti in 90 minuti, e tra gli 11 rigatoni raffigurati mi è piaciuta molto quello che ha anche morsicato. Italy, del nostro amico Oscar Farinetti, che salutiamo, che ha acquistato una pagina intera, chissà quanto ha speso, sui quotidiani, riprendendo il titolo del New York Post, raffigurante proprio il morso mondiale. Il commento naturalmente viene da sé: tutti vogliono mangiare italiano. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! E a proposito di mangiare italiano, dimmi cosa succede mentre mastichi e addenti, e ti dirò come sta la tua bocca, ma anche il tuo collo, le tue spalle, la tua schiena, le tue caviglie, perché la bocca influenza la nostra postura, ma anche la salute generale. Quindi se ho le caviglie grosse è colpa della bocca? Potrebbe essere, a parte che non sono grosse, ma... Professor Di Pietro, sì, certo che potrebbe essere un dolorino alla caviglia, potrebbe. No, se ce le ho grosse proprio, non ho perché, dolori, ce le ho proprio grosse. Perché hai denti forti. Ecco qua. Non ho caviglie grosse, ho denti forti. Bravo. Ti piace? Certo. 800 24 00 24, ma io vorrei, prima di dare la parola a Fulvio da Monza che ci attende, e poi abbiamo Rosi da Pescara. È vero. Io vorrei chiedere, riuscite a farci capire quali sono i segnali, e soprattutto se c'è un semplice test di autovalutazione che, ripetiamo sempre, non vuole sostituirsi al medico, eccetera eccetera, per capire che la mia tensione, il collo che mi fa male, la schiena dolente, potrebbe essere il risultato di una bocca che non è in ottima forma, diciamo così. Ma certo che c'è. La domanda che molti si pongono è proprio questa: la mia occlusione mi sta creando dei problemi in altre parti del corpo. Allora, anatomicamente lo vediamo tutti, siamo collegati, ma in termini, per usare un termine scientifico, funzionali, effettivamente questo rapporto si manifesta sempre. Chiunque di noi provasse ad appoggiarsi 2 dita sulla nuca, e provasse ma ad due, aprire due, lei dice due a destra e due a sinistra, due a destra e due a sinistra, con le due mani, quattro. Esatto, come se volesse massaggiarsi la cervicale, sì, quando è un po' tesa, e provasse ad aprire la bocca tirando bene al massimo, noterà che in alcuni casi c'è una contrazione dei muscoli del collo, in altri casi no. Chi non avverte questa contrazione, mi raccomando, tenete le mani sul volante se state guidando, può sentirsi un po' più tranquillo nel valutare la sua situazione occlusale come se non ci fosse. Ma contrazione vuol dire il collo che si fa un po' duro? Chi di noi sente la contrazione la sente molto distintamente. Ah, il collo si fa duro e i muscoli della nuca si tendono. Se l'ha chiesto, non l'ha sentita. Anche io non l'ho sentita. Ci sono due cordoncini sul collo. Sì. Se rimangono tranquilli, tutto bene. Se no, 800 24 00 24, perché il professor Di Pietro ci dirà che cosa fare di questi cordoncini troppo tesi. Certo. Abbiamo i nostri ascoltatori. Esatto, naturalmente molti hanno risposto al nostro quizzettone: quanti morsi complessivi nella sua carriera ha tirato, insomma, ha fatto, come si dice, quanti morsi ha, quale dato. Verbo ha dato, basta, non lo dico. So, come si dirà? Il nostro Suarez ha sganassato. Allora, vediamo un po' se hanno, proviamo a rispondere anche al quizzettone prima delle domande, sì, di carattere, diciamo, scientifico. Allora, Enzo da Bari, buongiorno. Buongiorno. Quanti morsi per lei Suarez? Ne ha fatti 12. Lei dice una dozzina. Purtroppo non è corretto. Non è corretto. Non è corretto. Come ha fatto i conti? Provi. Ne ho sentito una trasmissione su Sky. Ormai tre sono quelli ufficiali. Sì. Gliene hanno attribuiti un po' più di quanti ne ha realmente tirati. Altri nove in serie minori quando giocava da ragazzino, fino a così li hanno contati. Ah, anche un po' così, sì, morsi in famiglia. Gliene hanno attribuiti qualcun altro per non sbagliare. Altri. Allora Enzo, non è così? Andiamo a Fulvio dalla provincia di Venezia, per il quale, se vincerà, apriremo la libreria di Cuore e Denari. Fulvio, da Venezia. Pronto? Perché ne abbiamo anche un altro da Monza. Tutte Z. Pronto? Fulvio, ci siamo? Sì. Sì. Pronto? Fulvio, ce la possiamo fare? Sono stati 8. Eccolo là. Bravo, non sappiamo se ci ha sentito, ma la risposta è corretta. Bravo, bravo Fulvio. Applausometro. Dai, poi 8, dai. Allora, che cosa vuole? Un libro di cuore, un libro di denari o una visita odontoiatrica? Che sicuramente un morso in testa. Esatto. Un libro di denari. Ottimo. Denari, le mando bene le rendite finanziarie. Va la nuova tassazione, c'è la guida fresca del Sole 24 ore. Grazie Fulvio, buona giornata. Complimenti a voi. Grazie, complimenti anche a lei che ci segue. Fa bene. 800 24 00 24, diteci anche se quando mordete qualcosa succede alle vostre gengive, sanguinano, e soprattutto di che colore sono le gengive e i denti, sono sensibili o sono forti? Perché questo è un periodo dell'anno in cui, Debora, facciamo anche conti con gelati, bibite ghiacciate. Brava, è vero, e danno fastidio qualche volta, quella sensazione lì, insomma, ci mette un po' in allarme. Allora, ne parleremo naturalmente con il professor Nanussi e il professor Di Pietro, ma intanto andiamo a Pescara. Rosy, buongiorno. Buongiorno ragazze, buongiorno a voi, buon lavoro a tutti. Brava, vedi, già allora, queste ragazze, sì, mi piace, Rosy mi è simpatica. Sì, sì, grazie a voi, molto gentile. Io volevo porre al professore questa domanda. Allora, avevo escluso tutte le patologie che potevano portare le mie vertigini. Dopodiché ho cambiato lato di masticazione. Sì. E le vertigini sono scomparse. Scomparse proprio così. E adesso io non so se una forma, sì, psicologica, oppure può rientrare in queste patologie di cui lui parlava precedentemente, qualcosa. E poi ho il canine che in alcuni periodi dell'anno mi sanguina come gengive. Solo il canine. Solo non ho altre gengive che sanguina. La gengive del canine a questo problema. Ah, benissimo, allora le vertigini a me e il canini a professor Nanussi. ce n'è per tutti. Adesso è tornata questa cosa qui. Grazie, allora, guarda, grazie. La cosa più importante, mi creda, non, forse non neanche sapere perché, ma è che le sono passate le vertigini. Questa è la cosa più bella che poteva dirci. Sicuramente un nesso c'è, quello che lei sta dicendo non è un fattore puramente psicologico, anche se la parola del fattore psicologico è da utilizzare sempre, perché quando uno poi comincia a star male, si sente ovviamente è anche malato, non sempre reagisce bene, ma tolto questo, assolutamente sì, ci sono delle problematiche della colonna cervicale che vengono esasperate da una dentizione non corretta, da un rapporto tra i denti non corretto. Volevo fare questo esempio così ci capiamo subito. Quando noi apriamo e chiudiamo la bocca, dobbiamo pensare alla nostra mandibola come a un ponte levatoio. Uh-huh. Un ponte levatoio, se ve li ricordate dei vecchi castelli, avevano queste funi a destra e a sinistra dove delle persone dovevano tirar su. La nostra mandibola è esattamente un ponte levatoio. Le persone che devono tirare queste funi in fondo sono i muscoli, la nostra volontarietà con i nostri muscoli. Se non siamo perfettamente in asse, è come se le persone che tirano su sto ponte levatoio cominciano a spostarsi e lo, certo, tirano su di lato. Sì. Allora vediamo che il ponte inizia ad andare fuori asse. Ed è quello che succede alla nostra bocca, e tutta questa forza poi va principalmente nella zona cervicale, perché è lì che andiamo veramente a verificare quali sono poi i danni, i primi danni che facciamo, e poi quindi possono avere altre problematiche come le vertigini o altro. Per il canino non lo so. Per il canino ne parleremo, ma intanto vogliamo dire ai nostri ascoltatori che tutte queste situazioni vanno diagnosticate e si possono in parte correggere. Abbiamo anticipato che avremo parlato dei bar. Esatto. E lo faremo soprattutto per dare informazioni più dettagliate alle persone che serrano o digrignano i denti. Ne abbiamo già accennato qualche giorno fa, sono due situazioni diverse, ma parleremo anche dei bite che si mettono gli sportivi. Aiutano a mettere le ali ai piedi o a evitare traumi. Se siete sportivi e avvertite qualche problema a livello muscolare, chiamateci perché i nostri esperti sono a vostra disposizione. Segnalo anche il messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che ci racconta di avere due gemelle di 2 anni, ora un po' meno, ma fino a qualche mese fa si lasciavano i segni per giorni a furia di mordersi, evidentemente reciprocamente. Io digrigno i denti, ammette il genitore. Cuore e denari. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una te. Le persone non vanno dal dentista perché le cure odontoiatriche sono le cure che costano di più in assoluto, segnala Edoardo. Per far fronte alle cure e alla prevenzione in un ambito potenzialmente molto costoso per le nostre tasche, come può essere quello odontoiatrico, può esservi venuto in mente di provvedere ad un'assicurazione sanitaria. Devo farmi vedere la bocca che non riesco a parlare stamattina, sarà il tempo, non lo so. È un argomento di cui abbiamo già parlato anche qui a Cuore Denari. Voglio prevenire però, e quindi faccio prevenzione un po' anch'io stamattina, i vostri messaggi che ci farebbero notare subito che anche il premio di un'assicurazione può essere molto difficile da sostenere. È bene però fare attenzione e verificare che proprio le cure dentistiche, con un'assicurazione o perlomeno una convenzione che ci consente qualche sconto, non siano presenti fra i benefit offerti dal nostro posto di lavoro. Ricordiamolo che cosa sono i benefit: consistono nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti, in sostanza una forma di pagamento che possiamo definire in natura e che fa a tutti gli effetti parte del nostro stipendio, e quindi è bene verificare in cosa consistono questi benefit e di quali possiamo disporre magari a nostra insaputa. È piuttosto frequente il caso in cui il datore di lavoro paghi premi di un'assicurazione a beneficio dei propri dipendenti al fine di assicurare questi da rischi professionali o anche extra professionali. Vi leggo un'ultima cosa: una recente indagine eseguita su commissione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti d'azienda, prendendo in esame un campione di circa 2.500 impiegati, ha messo in evidenza come 4 persone su 5 ritengano che l'assistenza sanitaria o un aiuto in questa sia il miglior bonus che si possa ricevere. Quindi una volta i benefit che facevano la gioia dei lavoratori dipendenti erano il telefono cellulare, l'auto aziendale, oggi invece le cose sono cambiate e vince di gran lunga l'assistenza sanitaria. Fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù. Sono 2 mani, sembrano tanti, son caduti e non crescono più. Quando parlo e dico l'effe, sbaglio il fischio, sbaglio il fischio. Poi mi topo e mi confondo, non fu buono più a parlare. La vispa Teresa, Adea, tra l'erbetta, bam. bambini morsicatori. Può succedere che la maestra dica alla mamma: signora, suo figlio ha dato un morsicone a un suo compagno. Oppure può capitare anche il caso contrario, cioè che arrivi a casa il bambino con un morellino, il morsettino dato dal compagnetto di scuola. Le mamme vanno in ansia, però in linea con noi, Deborah, abbiamo una grande esperta. Abbiamo il piacere di avere Barbara Tamburini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che è autrice insieme al nostro Alberto Pellai del libro I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, che è un libro che ha grandissimo successo. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qua abbiamo una zia che ha dei nipoti piccoli, esatto, e una mamma che ormai ha figli grandi, esatto. Quindi lascio il campo alla zia. No, perché la piccola qualche volta è venuta a casa con il gibollino sul braccino, povera. E quindi qua che si fa? Mia sorella è andata un po', ecco, in escandescenza ovviamente, però non si è arrabbiata con la mamma dell'altro bambino. Del piccolo Suarez. Esatto, ma che succede, dottoressa? In questi casi come ci si deve comportare? Questo è un episodio piuttosto frequente, soprattutto all'asilo nido, e capita proprio di incontrare questi bambini con la passione per i morsi, e effettivamente serve un intervento fermo per aiutare il bambino a ridare il significato a quel gesto. Essere il genitore di un bambino morsicatore non è una bella posizione, perché di solito appunto i bambini che mordono spesso i compagni sono visti un po' male da tutti, perché il morso è un gesto molto potente, è un gesto che lascia un segno duraturo, certo, ma veramente molto male, e ricorda proprio questo gesto animale istintivo, aggressivo, e quindi di conseguenza vengono guardati quasi un po' se l'episodio non si è manifestato solo una volta, ma ci sono bambini che ripetutamente usano questo gesto, certo, per comunicare la propria frustrazione, e quindi quando non riescono a trovare le parole per ottenere qualcosa, vogliono un gioco, vogliono attenzione, l'attenzione, e il morso è un gesto efficacissimo, perché immediatamente l'altro molla la presa. Se ad esempio si sta litigando per un oggetto, l'altro bambino per il male molla la presa, e quindi con il morso si ottengono le cose che si vogliono, ma non è tanto da fare. Alessandro, che ci chiama da Chieti, forse vuole intervenire proprio a riguardo. Infatti, buongiorno. Forse anche buongiorno. Elena, quindi, buongiorno. Che rispettivamente non vengono da Marte e da Venere, ma da Chieti e Treviso. Ho fatto la battutona. Mi è piaciuta. Questa stamattina sono la spiritosona. Alessandro, buongiorno. Volevo solo dire, io ho un piccolo di 3 anni che a volte dà dei bei morsettini, l'ultima volta ha morsicato anche la cuginetta, però per quello che ho potuto notare lui non lo fa nei momenti in cui vorrebbe ottenere delle cose, ma forse nei momenti di grande euforia. Lui proprio ha il bisogno di invece che baci i morsi. Sì. Magari ancora. E ho notato che di notte a volte digrigna un po' i denti, nonostante che sia così piccolo, insomma. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Una doppia analisi allora per il suo bambino. Andiamo alla... Anche Andrea da Bologna ci scrive: ma dei morsetti affettivi, vogliamo parlarne? Forse lui però sta parlando di altri morsetti. Scusa, mi sono sbagliata. Elena, buongiorno. Mettiamo insieme anche il caso di Elena Treviso, così la dottoressa Tamburini risponde ad entrambi. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho un bambino di circa 6 anni che quando è appunto frustrato o non riesce a esprimere quello che desidera, o si rende conto che non è stato compreso quello che voleva dire, si esprime con un morso. Non lo fa spessissimo, ma insomma abbastanza spesso, certo, da mettermi a disagio. Elena, ci parla con il bimbo, gli spiega evidentemente che non è che non si fa così. Sì, ci parlo e gli dico: non fare così, dimmi che cos'è che non ho capito. Però è più forte di lui. Sì, è più forte di lui. Lui c'ha questa grandissima rabbia e gli lacrimano gli occhi e mi guarda con disprezzo, e prima che dopo avermi morso, insomma. Vabbè. Io cerco di non farmi mordere. Calma e gesso. Allora, la dottoressa Tamburini in 4 mosse aiuterà Elena e Fulvio a mettere a posto un po' Alessandro, le cose. Alessandro forse. A mettere a posto le cose. Dottoressa Tamburini? Io credo proprio che quello che raccontava adesso l'ascoltatrice effettivamente fa vedere come il mordere è un gesto pieno di emozioni, sì, e quindi bisogna proprio aiutare il bambino, sia direi un paio di di prospettive. Sì. Nel momento in cui fa il gesto e quindi manifesta la sua rabbia in questo modo, è proprio necessario fermare il bambino e dargli un messaggio chiaro che quello è un gesto che non può essere fatto perché ha delle conseguenze. Ecco, si dice no, non si fa. Si deve dire un no molto fermo, si deve fermare il bambino e soprattutto è necessario anche un gesto di riparazione. Ad esempio? Cioè il fatto di chiedere scusa al bambino che è stato morso, il vedere, prendere consapevolezza delle conseguenze del suo gesto, del fatto che può far venire un livido, può proprio generare molto dolore in chi lo riceve e quindi fare un atto riparatorio che può essere scrivere un biglietto, chiedere scusa, quindi lavorare proprio sulla consapevolezza delle conseguenze del gesto. E la cosa invece importante da fare è lavorare, prevenire il morso. Sì, come si fa? E in questo caso è proprio importante aiutare il bambino a capire, a cogliere i segni di quando la rabbia lo invade, e quindi aiutarlo proprio a dire quando senti che la rabbia sta per arrivare, stai per perdere il controllo, devi trovare altri gesti, altre forme per poter evitare di mordere. Quindi qui sta proprio, in base al bambino, concordare una strategia alternativa, no? E può proprio essere trovare dei gesti meno violenti per gli altri, che però esprimano lo stesso la sua rabbia. E in questo modo il bambino prende consapevolezza delle proprie emozioni, impara a riconoscerle e quindi a gestirle. È un percorso però che servirebbe a tutti, esatto, anche a chi non morde e anche quindi a chi è adulto, direi. Volevo aggiungere, rispetto invece a quello che raccontava l'altro ascoltatore, del fatto piccolino, che effettivamente diventa anche un gesto che può esprimere proprio un bene così intenso che quasi ti mangio, talmente, perché sì, i morsi tra genitori e figli nascono proprio con questa funzione di gioco. All'inizio quasi tutti i genitori hanno giocato a far finta di mordere il proprio bambino o a far finta di essere morsi dal proprio bambino. E infatti è quello che dice Teresa: ti voglio così tanto che ti mangio, questo è anche il significato del morso. Quindi è proprio importante lavorare su questo significato per distinguere il gioco del morso dal morso vero. E succede che però in alcune fasi, soprattutto magari in preadolescenza, adolescenza, questa fase un po' aggressiva, quindi ti voglio così bene che ti mangio, riappare. Quindi capita magari di vedere alle medie ragazzi che tornano a casa con dei morsi magari dati dalle compagne, e in questo caso è proprio un gesto quasi di mamma mia, lì ci vuole un altro supporto psicologico per il Michele genitore. Quando troverà la fidanzata? No, neanche allora, ci pensa. Adesso noi andiamo a sentire le notizie del GR, il professor Di Pietro e il professor Nanussi sono a vostra disposizione. Byte di Grigno, serramento e sportivo. E poi anche Giovanni che chiede per i suoi figli che giocano a rugby, che non vogliono mettere il paradenti, come si può fare? Cuore e denari. E allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti, oh yeah. Serve per mangiare, parlare, ridere, sorridere, respirare, la bocca serve anche a fare sport. Di questo si occupa una branca dell'odontoiatria, precisamente l'odontostomatologia dello sport. Professor Nanussi, lei si occupa proprio presso il suo dipartimento, al San Gerardo di Monza, di questo, della bocca degli sportivi. Esiste anche una società scientifica di riferimento? Infatti sì, c'è la Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport. Sono paroloni, ma alla fine cosa significa? Che gli odontoiatri hanno imparato anche a valutare lo sportivo da questo punto di vista, perché lo sportivo ha delle peculiarità sue specifiche. Intanto, ad esempio, la capacità di contrarre i muscoli di un atleta è spesso 3-4 volte superiore a quella di una persona comune, e sarà così per tutta la vita, lo sarà nei muscoli masticatori come in tutto il suo corpo. Molti medici dello sport sanno questo e riconoscono l'ex atleta anche durante un esame fatto a 70 anni d'età. Sino ad ora abbiamo cercato di spiegare perché i denti possono far male alla schiena, alle spalle. Adesso sempre più difficile proveremo a capire perché i denti, o almeno la bocca, può metterci le ali ai piedi o al contrario trasformarsi in una palla al piede. 800 24 00 24, ma abbiamo ancora alcuni ascoltatori che si vogliono mettere in contatto con noi, quindi sportivi, attivatevi. Esatto, e non solo, posso risolvere subito il caso di Ilenia, che è una tra le prime ascoltatrici ad averci scritto e ha la questione dimensione appunto del byte che adesso approfondiremo. Con lui, proprio lo chiama così, è praticamente un compagno. Esattamente, infatti dice siamo ormai inseparabili. Vedi. Ho risolto frequenti dolori cervicali e soprattutto una cisti grassa sul polso destro dovuta al lavoro da scrivania, accidenti al mouse. E qua i nostri consulenti stamattina allargano le braccia, ma soprattutto ne devo cambiare uno all'anno perché di notte serro la mascella e in 6 mesi prima del byte ho rotto 2 denti con conseguenti seccature dentistiche ed economiche. Hai visto? Che rispondiamo? La donna di denari ha subito centrato. Focalizzato sui soldi. Che rispondiamo ad Ilenia? Allora, innanzitutto è una questione di diagnosi. All'inizio bisogna capire il perché c'è un serramento così elevato. Quali sono i motivi? Sono motivi fisici o sono motivi psicologici? Perché se serri tanto e sei quel gruppo di persone che serrano tanto, lo farai sempre, non esistono sistemi per serrare di meno, soltanto per gestire bene questa potenza che senza controllo, come diceva una pubblicità di qualche anno fa, diventa problematica. Allora, la cisti, beh ragazzi, diventa più difficile capire quale possa essere il collegamento diretto. La reazione diretta non c'è, però una relazione ipotizzabile forse il professor Di Pietro ce la può dare. Ma certo. Possiamo anche andarcene, tendine, fanno tutto da loro. Ma bella, ma venite tutti i giorni. Come ci sono passati così la palla. E quindi, dottor Di Pietro, si chiama noi. Questa è stato ciste, l'osservarvi con attenzione. Questa ciste sul polso, poveretta. Allora, la cisti potrebbe essere stata una cisti tendinea. Se è una cisti tendinea, probabilmente un tendine la cui impostazione arriva dalla cervicale, perché è dalla cervicale che parte poi l'input, è il nervo che poi lo fa muovere, probabilmente, però andrebbe visto, era continuamente infiammato e per cui la reazione di questo tessuto è quella di formare questa cisti. Vi ricordate quando andavamo in bicicletta, eravamo un po' piccolini e poi si bucavano le biciclette, sì. Poi quando aprivamo la camera d'aria che faceva la bolla, o come la bolla delle cicche, sì, quando sì. Ecco, quella è la cisti tendinea per intenderci, certo. Quindi sul tendine cresce questo. Nel momento in cui la cervicale non dà più quest'input, potrebbe essere che si sia ridotta al punto tale da non sentirla più. Potrebbe. Professor Nanussi, lei ha detto bisogna fare diagnosi, non sempre le persone sono in grado di capire se serrano oppure se digrignano, allora però c'è un metodo infallibile per capire se certo. Il problema esiste oppure se il problema non esiste più ma è esistito in passato e quindi il byte non sarebbe più necessario. È proprio così, ci sono situazioni in cui si notano sui denti delle abrasioni molto molto evidenti. Queste possono anche essere comparse in un momento precedente, molto antecedente alla visita odontoiatrica, spesso addirittura l'igienista che identifica questi problemi e li pone all'attenzione del dentista. E nel momento in cui vengono notate non è detto che siamo in una fase in cui il paziente sta bruxando o sta serrando, cioè sta scivolando con i denti in modo inconsapevole anomalo. E eccessivo, anomalo. Allora, basta eseguire un piccolo, applicare una semplicissima struttura in plastica trasparente che si chiama Brooks Checker, che non è altro che una pellicola rossa che viene portata per una sola notte all'arcata superiore. Alla mattina, quando ci si sveglia, si va a verificare se questa pellicola sia consumata e in quali punti sia consumata. Utile per sapere se abbiamo bruxato e anche per sapere in quale zone abbiamo eseguito dei sovraccarichi, magari di un nuovo e bellissimo lavoro in ceramica che ci è costato come un'automobile. Vedi che ti ha lasciato, ti ha lanciato la palla a te. Esatto, no, ma in realtà sono rimasta affascinata dal bruxato. Che è differente dall'aver digrignato? Beh, il serramento è di due tipi, può essere statico o dinamico. Ci sono situazioni in cui serriamo forte, la statica non piace mai a chi si occupa di riabilitazione, come il professor Di Pietro magari ci confermerà, e c'è invece chi bruxa in modo dinamico, scivola con i denti gli uni contro gli altri, digrigna. Consumandoli con degli inequivocabili segnali. Benissimo. Allora, c'è il povero Fulvio da Monza. Andiamo. Che è lì appeso da un sacco. Fulvio, buongiorno. 800 24 00 24 il numero verde per voi, ci dica. Buongiorno. Eccoci. Niente, io chiamavo per una cosa che avete fatto all'inizio che per me è stata come una fiaba, una meraviglia, nel senso che io fino a 40 anni soffrivo di schiena, avevo la scoliosi, quindi giustamente davo la colpa a questo. Poi per altro verso ho dovuto fare l'impianto ai denti Io non sapevo minimamente di possibili collegamenti, ma devo dire che dal giorno dopo, quasi improvvisamente, io da 40 anni in avanti, adesso ne ho 60 rotti, non ho più avuto un mal di schiena, perché proprio poi mi ha confermato il dentista che in realtà poteva benissimo essere dovuto al fatto di una masticazione, ma io ero convinto fosse la scoliosi che ciò appunto, e in realtà invece, quindi è stata come una magia, diciamo. Musica per le orecchie dei nostri esperti, Fulvio. Proprio questo, volevo raccontare solo questa esperienza. Una storia a lieto fine, perché evidentemente c'è stata una diagnosi corretta a monte, perché ci sono invece persone che hanno avuto problemi inversi, si sono fatte magari limare i denti, mettere cose strane, togliere, mettere, e poi hanno invece pagato questa poca professionalità, certo, nell'affrontare il problema da parte dell'esperto, e si sono trovati esattamente con il problema opposto. 800 24 00 24, sportivi, digrignatori, bruxatori, noi vi aspettiamo, perché vogliamo parlare con voi e soprattutto rendervi consapevoli se avete un problema. Vicenza ci aspetta. Sì, c'è Giuseppe, esatto. E poi tra l'altro anticipo già che voglio sapere quanto costa un bite, soprattutto di che materiale è fatto, perché a me sembra banalmente una scatolina che si mette in bocca, invece stiamo parlando di qualcosa di un po' più complesso, naturalmente. Perché la donna di denari dice qua dietro c'è business, tutti hanno bisogno di bite improvvisamente, esatto. Perché? Infatti, vero? Esatto, e quindi bisogna capire quanto investimento bisogna fare anche per mettersi a posto la bocca con questo strumento. Però prima Giuseppe da Vicenza. Giuseppe, si è distratto. Pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giuseppe. Si è emozionato. Allora? No, era un'attesa, quindi attenzione un pochino. Sì, pronto. Eccoci. Allora Giuseppe, se lei vuole raccontarci qualcosa, se no ci salutiamo e ci auguriamo una reciproca buona giornata. Eccoci. Lo accenno subito alla problematica. Sì. Diciamo che io ho avuto a luglio dell'anno scorso una forma di vertigini, che comunque poi ho fatto radiografie e cose varie e ho riscontrato sulla cervicale tre anelli in sovraimpressione. Sì, allora? E mi davo questa sensazione di vertigini, poi comunque ho fatto tutte le radiografie possibili e immaginabili, ho fatto il doctor, ho fatto terapia, ho fatto... Quindi le ha fatte di tutte, ma... Ma rimane sempre un sibilo o una sensazione di un fischio quando mi metto a letto, quando mi sdraio, alla base della cervicale, come se fosse all'interno dell'orecchio. Muovendo la mascella aumenta questo sibilo. Quindi farò una TAC maxillofacciale per avere maggiori riscontri. Insomma, comunque... Giuseppe ha questo problema, ha fatto indagini di ogni tipo. Il sibilo, però ancora non trova una risposta. Che starà succedendo nel corpo di quest'uomo? Si faccia visitare da un gnatologo, da un dentista gnatologo. Oppure... Questa nuova bella parola, gnatologo. Oggi ho imparato bruxare lo gnatologo, mi dica dottor Di Pietra. O un otoneurologo che può valutare se il problema, come abbiamo detto tante volte, può essere riferito e causato dalla centralino della parte interna dell'orecchio. Andiamo ad Anna? Andiamo ad Anna molto volentieri, che ci chiama da Milano. Anna, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon lavoro a tutti, lo dico anch'io, così mi fate i complimenti anche a me. Grazie Anna, lei è magnifica, brava e anche bella. Sì. Ecco, grazie. No, senta, allora il mio problema è questo, io sono bruxista da tanto tempo, l'ho scoperto sulla ventina più o meno, ho fatto un sacco di impianti, ho praticamente 4 impianti in bocca. E da un po' di tempo a questa parte io mi sveglio al mattino che non riesco a aprire la bocca, l'ho incastrata completamente la mascella. Allora, e fa male, immagino, ma anche? Non è proprio doloroso, il fatto è che faccio proprio fatica a volte... Non riesco neanche a fare colazione, mi devo massaggiare la mascella finché non mi passa. Ah, quindi è in quel modo che risolve, Anna, ripristina la funzionalità, ma poverina. Sì, devo massaggiarmi la mascella proprio. Io non so se qualcuno mi ha detto che gli impianti non vanno bene nel caso del bruxismo. Io porto il bite di notte. Mi hanno appena messo. Ma le hanno fatto questa prova della cartina tornasole, che tra l'altro è stata inventata da un giapponese, mi diceva il professor Nanuso. Che si richiama Sato. Il Brux, no, come ha detto Sato. Prima? Come si chiama? Si chiama Brux Checker. Brux Checker. Anna, lei l'ha fatta la cartina di Sato? No. No. Perché adesso voglio dire, scusate. Quanto ha speso per il byte però? Brava, Anna. Come? Il byte quanto le è suonato? Ma il byte è da tanto tempo che lo porto e il dentista mi ha detto di metterlo sempre per non rovinare. No, ero proprio brutalmente, volevo sapere quanto avesse speso, Anna, comunque se mi dice che è da un po' che c'è. Quanto ha speso del byte? No, il byte non l'ho pagato tantissimo. Ok. Guardi, l'ho fatto un bel po' di tempo fa, l'avrò pagato sui 150 euro. E qua, professor allora, Rannosi dice che... il problema persiste, io dico questo, se il problema persiste, io cambierei medico, senza alcuna offesa dal dentista, perché insomma, se invece che farci stare bene ci fate stare male, io vi cambio oppure non vengo più. Non tutti, non sono dentista, quindi lo posso dire, non tutti i dentisti sono ognatologi, sono bravissimi, ognuno ha la sua specialità, come nella medicina. Se una persona cura il fegato, mi faccio curare il fegato da lui, poi per il cuore vado dal cardiologo. Nel caso specifico avrà fatto dei denti bellissimi, sanissimi, perfetti, però l'aspetto ognatologico, sottolineo, andrebbe visto da un ognatologo. Intanto ha fatto già bene, perché quando Anna ci raccontava che si faceva un po' dei massaggi, un po' per sbloccare, ed è una cosa che potremmo fare tutte le volte. Un po' di magnesio marino le potrebbe far bene prima di andare a letto, perché tiene il muscolo meno rigido. A chi altro fa bene il magnesio marino? A tutti. Come si prende? È sale fondamentalmente, ha un costo molto basso, ma veramente basso. E subito, senza che neanche glielo chiedesse. Si compra in farmacia, c'è in varie forme, c'è addirittura in capsule piuttosto che in compresse. Perché mi ha messo sciolto marino e non solo magnesio? Perché cloruro di magnesio. Il magnesio diciamo che è molto di facili costumi, cioè quindi con tanti elementi che si associa. Leggerone. E quando è cloruro di magnesio è biodisponibile immediatamente, il risultato è immediato e fa dormire anche meglio. Fa solo bene, insomma, magnesio, no? E vedi che qua che scoperta è finita questa prima edizione di Cuore e Denari, abbiamo scoperto solo adesso il magnesio marino, ma che scandalo, guarda. Professor Nanussi, noi invece veniamo da lei. Allora, l'ascoltatrice anche mi ha fatto un po' tenerezza, perché ha ammesso di essere bruxista come se facesse outcoming, no? Ah, devo riconoscere che ho questo difetto. In realtà sono Anna e sono bruxista. E non è un difetto, anzi è una caratteristica neuromuscolare importante. Gli impianti non sono assolutamente controindicati in caso di serramento o bruxismo. Certo, ne va considerato con molta attenzione la protesizzazione, il bilanciamento della bocca, le forze in gioco. Un'elettromiografia di superficie, che non è dolorosa, spesso aiuta, ad esempio, a capire se ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, in un sistema delicato, e quindi vanno prese determinate precauzioni, oppure se si può procedere in modo, diciamo così, rutinario, anche per evitare spese inutili. E qui guardo Deborah, al paziente. Certo, vi metto tutti sull'attenti. Quindi la possibilità di affrontare il problema ognatologico è su vari livelli, che possono andare dalla più semplice mascherina protettiva, che si fa veramente con un costo estremamente limitato, spesso omaggiata dal dentista alla fine di un lavoro importante, a un bite impostato in modo, noi diciamo, gnato-ortopedico, qualche cosa che deve dare una spinta in più alla mandibola, un valore in più a quello che stiamo mettendo in bocca al paziente. Intanto c'è Luigi da Luca che scrive anche: molti anni fa un dentista mi ha fatto un bite che era una morsa, ma sono ancora così rigidi o sono più tollerabili dalle bocche, professor Nanussi? Ma un bite eseguito correttamente alla persona che ne ha bisogno, cioè il paziente ha bisogno esattamente di quel tipo di bite, certo, viene fatto nel migliore dei modi, viene percepito non certo come un corpo estraneo, ma come un compagno quasi inseparabile. Abbiamo visto prima l'ascoltatrice, esatto, che diceva: io e il mio bite siamo ormai compagni inseparabili. Allora, a proposito di costi, volevo anche segnalare che alcune cliniche universitarie sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, come quella del professor Nanussi, per cui tutti i bite non si pagano profumatamente, si può anche risparmiare un pochino, a patto che naturalmente queste informazioni si conoscano. Nicoletta? Assolutamente sì, volevo rispondere a Giovanni da Brescia, che ci chiama all'800240024 con una richiesta. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per la bella trasmissione, come sempre, che mi tenete compagnia da buon disoccupato. Allora, Giovanni, anche lei vuole fare i complimenti. No, poverino, è disoccupato, ci ha detto. Domani parliamo di lavoro, Giovanni, un po' per i più giovani, ma stia all'ascolto che magari qualche informazione la diamo anche a lei. Ci dica. Speriamo. dico solo una cosa, io ho il problema della glottide, cioè quando io vado dal dentista, grazie a Dio i denti sanissimi, vado per la pulizia. Bravo, attuale, perché quello è il trucchetto, farsi controllare per evitare, prevenire meglio che curare e quindi pagare. È proprio, diciamo, minima, o perlomeno si intervire, però appena mi vede ci mettiamo a ridere perché sa che io tengo la bocca aperta massimo 2 minuti e se appena deve andare in profondità mi viene come, diciamo, un conato di vomito, ma anche come quando il dottore ti controlla la gola. Sì, quindi è molto sensibile. È un grosso problema. Mi ha detto un conoscente che è andato da un'altra nazione a farsi mettere a posto quelli che aveva quei problemi lì, l'hanno messo con un ago tipo agopuntura ed è rimasto un'ora con la bocca aperta. Che era mai capitato. Volevo sapere qualcosa. Agopuntura e dentisti, professor, professor Nanussi, in chiusura serve anche l'agopuntore, perché no? Posso azzardare una risposta, l'agopuntura esiste, funziona, esiste un albo persino degli agopuntori. Esatto. Che ricordiamo sono medici. Perché no, se può essere d'aiuto va bene, tutto per agevolare un momento sgradevole come quello dell'odontoiatria. E se volete saperne di più ricordate che a Cuore Denari ci siamo occupate di agopuntura, andate a riascoltare la puntata. Di gran successo peraltro, grazie. Grazie al professor Di Pietro. Grazie a voi. Io chiamo dottore e professore indistintamente, però insomma l'importante... Al professor Nanussi. Grazie a voi. Pietro la corte regge la parte tecnica, Marco Lombardo e Laura Vanossi che ci aiutano sempre a mettere in piedi queste bellissime trasmissioni. Domani lavoriamo con i giovani soprattutto e quindi state accorti, come si dice. Buona giornata.